Uno va per chi mi ha messo al mondo, due al secondo in cui l'istinto mi ha guidato in questo scontro, tre a chi ha diviso con me rime, palco e conto, quattro per i quarti in cui ha battuto, messo punto, cinque per i fuochi e per le lame con cui tiro a campare, 6 grammi al giorno, man, tu sei nell'etame, 7 vizi che coltivo, vivo nel mio spleen, l'8 è l'ideale all'infinito, un letto è la mia queen. Questa sana incoscienza non ci lascia mai, a testimoniare Nico Royale, Ask ed MC Guy. Viviamo in questa giungla asfalto come i Pony Express, ma noi pigiamo, poi viaggiamo, salutami il tuo stress. Ferrara tu nel bunker studio, spingo rec, registro liriche di fuoco, un break, tutta la notte finché la voce non fa crack. Dai, dagli su, DJ Afan, pompa questa track.